si è appena conclusa la conferenza stampa di un ponte per, il ponte ha scelto ovviamente di dare la parola a Fabio Alberti, il quale ha scelto comunque anche a nome dell'associazione di non esprimere nessuna valutazione sui motivi e sui soggetti che hanno compiuto questo gesto. Non hanno voluto neppure commentare il messaggio di rivendicazione, nonostante le insistenze dei giornalisti sulla vicenda, su questo rapimento e sulla modalità. Si sa soltanto che i rapitori si sono presentati come guardie del governo e hanno chiesto alle persone presenti nell'ufficio il nome e hanno portato via le due ragazze e i due iracheni sulla base del nome, cioè hanno semplicemente chiesto chi sei, come ti chiami, e poi hanno portato via le persone che a loro interessavano. E ad Alberti è stato anche chiesto se c'erano stati degli avvertimenti, delle avvisaglie in questi giorni, ma lui ha ribadito che non ci sono stati particolari episodi prima di questo rapimento che facessero appunto sospettare a qualcosa, neppure il missile caduto appunto qualche giorno fa nelle vicinanze della sede del ponte a Baghdad. Non ha ribadito appunto che non si è trattato sicuramente di un avvertimento nei loro confronti, visto che comunque questi fatti ovviamente possiamo immaginare a Baghdad come nel resto dell'Iraq sono all'ordine del giorno. Fabio Alberti appunto ha ribadito che un ponte per non si è mai sentito nel mirino di qualcuno, si è sempre sentito a casa in Iraq e appunto ha ribadito che in qualche modo cercheranno di continuare il loro lavoro, anche se momentaneamente i progetti sono sospesi, non sanno bene come agiranno in futuro, aspettano ovviamente la conclusione di questa vicenda. Intanto però gli operatori che sono ancora presenti a Baghdad continueranno ovviamente a tenere un po' le fila e soprattutto i rapporti con la comunità, che sono molto importanti. Alla conferenza ha preso la parola anche Raffaella Bolini del Comitato Fermiamo la Guerra, che appunto come Alberti ha chiesto e ha detto al movimento, a tutte le organizzazioni che ovviamente stanno seguendo la vicenda, di cercare di seguire la questione un po' sottotono, di abbassare un po' i toni, di evitare le strumentalizzazioni politiche. Questo è stato detto più volte, sottolineato, si è chiesto l'impegno del movimento per la pace, evitando insomma tutte le altre organizzazioni che un po' sono all'esterno e soprattutto alla politica tradizionale, di in qualche modo evitare di introdursi in maniera pesante e di prendere una posizione netta all'interno appunto di questa vicenda. Ancora poi Alberti ha ribadito che il governo deve fare la sua parte, cercando di seguire insomma le garanzie minimali, e loro stessi insomma si affidano a questa interlocuzione istituzionale ufficiale. Hanno escluso, ecco un'altra cosa molto importante, hanno escluso un'intermediazione di altro genere, ecco, un'intermediazione di tipo non istituzionale. Si chiede con la mobilitazione e la partecipazione di tutti, a cominciare anche dalla popolazione irachena. Infatti domani sono previste delle manifestazioni a Fallujah, delle manifestazioni a Baghdad, laddove il Ponte Per segue da tempo dei progetti importanti, soprattutto nelle scuole con i bambini, e saranno proprio i bambini a scendere in piazza insieme alle loro mamme. Sarà insomma un evento molto importante per la città di Baghdad, a sottolineare quanto ecco, la comunità da sempre apprezzato ecco, il lavoro di questa organizzazione. Per quanto riguarda invece l'Italia e appunto il Comitato Fermiamo la Guerra, sappiamo che ci sono mobilitazioni un po' in tutte le città e l'appuntamento è senz'altro rimandato a questa sera. Nella città di Roma la manifestazione partirà alle 19 da Piazza Venezia ed arriverà proprio sotto la sede di un ponte per.